La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, da Oscar Giannino, qui è la versione di Oscar. Buongiorno, buonasera, buonanotte per chi ci segue in podcast. Vi ricordo anche l'indirizzo, ovviamente, la versione di Oscar @radio24.it, perché rispondo a tutti. Sapete i numeri invece per gli sms: 349-238-6666 per telefonare oggi sul nostro argomento che presento immediatamente dopo, il numero verde 800-24-0024. Allora, in questo 15 ottobre, ancora in attesa della legge di stabilità, come ieri ci tocca ancora ragionare, ma questa volta i testi che avete trovato sui giornali sono testi che dovrebbero significativamente almeno rappresentare quello che entra in Consiglio dei Ministri. Il governo e Enrico Letta hanno detto aspettate, però a noi tocca oggi sentire voi cosa avete capito fino a questo momento e farci spiegare da un carissimo amico da anni a questi microfoni, come a tutti quelli del sistema mediatico italiano, uno di quelli che si batte con più precisione per gli autonomi, ma non solo, per fare cifre precise sulla finanza pubblica italiana e soprattutto sulle imposte e le tasse, è con noi Giuseppe Bortolussi, il segretario della CGIL di Mestre. Buongiorno e grazie a Giuseppe Bortolussi. Buongiorno a voi, allora, Oscar, grazie per l'invito. Figurati Giuseppe, io intanto metto lì alcuni punti che a me non sono chiari, spero che verranno chiariti dalla legge di stabilità e poi iniziamo con te a ragionare. Per esempio, dopo tutto questo parlare nei testi che entrano in consiglio, l'intervento sul cuneo fiscale e somma con più detrazioni IRPEF e lavoratori dipendenti, in tutto si risolve a 2,5 miliardi, di cui 1,6 miliardi per le detrazioni IRPEF, con due ipotesi diverse, una di poco più di 10 euro al mese in più di liquido in tasca dei lavoratori dipendenti fino a 55.000 euro, uno leggermente superiore, fino a quasi due volte superiore, vedremo quale, ma il tanto decantato abbattimento dell'IRAP, vi ricordo l'IRAP sono 33 miliardi e 3 incassati dallo Stato nell'anno scorso, si risolve a 900 milioni per le sole imprese che fanno assunzioni, cioè tutte quelle che non fanno assunzioni in più, e lì c'è una roba fino a 15.000 euro per assunto di detrazione, sono fuori da questo abbattimento, che pari a un 34esimo dell'IRAP, con tutte le imprese che stanno in ginocchio, devono ricostituire i margini per le troppe tasse, e gli si dice no, noi intanto non siamo in grado di levarvi nulla. Prima domanda. Seconda domanda, nel testo complicato, ancora non chiaro, della nuova tassa sugli immobili di cui abbiamo parlato ieri, si rimette la deduzione al 50% della nuova service tax per i beni strumentali di impresa, capannoni, sia per le aziende a titolo individuale che per le imprese, ma lo si collega, non capisco perché, per la copertura alla riapparizione, sia pure al 50%, dell'IRPEF fondiaria. Si dividono i contribuenti l'uno contro l'altro, come dire, lo Stato non è che può davvero darvi la deducibilità, cari imprenditori, per i capannoni, che era saltata quest'estate, ve lo ricordate? Poi non capisco perché nell'alzare le aliquote sulle rendite finanziarie dal 20 al 22% contemporaneamente, naturalmente senza toccare quelle che si pagano sui titoli di Stato, lo Stato non alza la tassazione sulle cose proprie, ma contemporaneamente anche aggraviare il prelievo patrimoniale, l'imposta di bollo che risale ormai a due anni fa ed è stata una vera patrimoniale sul risparmio. Queste sono solo alcune delle cose che io non ho capito. Inizio a chiedere invece a Giuseppe Bortolussi, allo stato degli atti, vedremo dal Consiglio dei Ministri che giudizio dà del provvedimento ai fini della ripresa, della crescita e delle imprese. Ma io ti dico una cosa, questo si sta qualificando come il governo dell'incertezza, neanche più sui testi ci si riesce a capire. Ieri ho studiato il testo, oggi era completamente cambiato, e questo non è una banalità, perché l'economia è fatta di quella poca di certezza che puoi ricavare dai fatti, no? Bene, anche se c'è, loro la travolgono ogni volta, è il governo del rinvio, rinviano sempre tutto e della poca chiarezza. Scusami, ma ormai è così, non si capisce più neanche che cosa sta succedendo, e questa è una. Sulla capacità di rilanciare l'economia, capiamoci, due sono le possibilità, ce n'è una che io sostengo, è quella di rilanciare i consumi, ma ce n'è, e qualcuno dice no, questo è curare solo i sintomi, il vero problema è la competitività, se tu diventi più competitivo, vinci nel mercato internazionale, il saldo della tua bilancia commerciale è attivo, sei in avanzo e non hai bisogno dei soldi degli altri. Perché? Perché se la tua bilancia dei pagamenti è in disavanzo, tu devi importare soldi oltre che merci per coprire questo disavanzo, e lì ti indebiti, il tuo paese si indebolisce, nel momento che è più debole paga più caro i soldi che compra, no? Per il debito pubblico. Il debito pubblico, quando qualcuno lo sottoscrive, pretende, visto che c'è un rischio, perché questo paese non è competitivo, pretende di più. Bene, allora questa a che cosa serve? A neanche una delle due? Questa è la verità, sono intanto dosi omeopatiche. Qualcuno mi dice giustamente, guarda che questo governo più di questo non può fare. Allora ti dico una cosa che può sembrare una strambata, ma allora faccia la riforma elettorale, perché il vero problema è che qualcuno deve prendere delle decisioni dure, vere, serie, che cambiano l'andamento di questo paese. Cioè uno si presenta con la sua ricetta, i cittadini scelgono e poi deve essere in grado di fare quello che ha proposto. Invece adesso cosa succede? Succede che tra vetti incrociati, tra grugni, tra ricatti, non si fa niente di tutto questo. E allora questo provvedimento, che magari è il massimo che può fare questo governo, ma poi se andiamo nei particolari ti dirò di alcune cose che non stanno né in cielo né in terra, ma che comunque non risolve certo i nostri problemi, né di consumi, né di rilancio della domanda dei consumi, né quello di competitività, è uno di quei provvedimenti di un governo che sta in piedi per miracolo, cioè sta in piedi per la benevolenza di chi vi partecipa in attesa di qualcosa, che arrivi questo famoso Godot. Per noi, per non aspettare, continuare a aspettare fino alla fine dei giorni, l'unica è la riforma elettorale. Io posso anche avere un governo di cui non condivido niente, ma un governo deciso che applica la sua ricetta, contro il quale mi batterò, ma che almeno sappia quello che fa. Qui è un naturalmente barcamare. Giuseppe, intendi dire una riforma elettorale capace di darci un governo poi che governi, perché se facciamo l'iperproporzionale non ci sarebbe comunque. Punto, un governo che esatto. Un governo che possa governare. Vedi, io non sono convinto che i giornalisti siano diventati improvvisamente tutti stupidi e sbaglino le previsioni e prendano una bozza per l'altra. Mi spiego, dove le trovano queste bozze? Io sono convinto invece che questo governo cambia all'ultimo momento spesso opinione. Questo è il discorso, perché questo è il frutto di quelle correnti, mi spiego, che ci sono, che noi non vediamo, scontri, veti, se fai questo vado a casa, ti tolgo l'appoggio, eccetera. Per cui alla fin fine circola la bozza A, però alla fine arriviamo alla bozza Z. Perché? Perché cambiano opinione ogni quarto d'ora. E allora per questo ribadisco l'importanza della riforma elettorale che contenga quello che è necessario per far governare. Questo io sono d'accordo con te, l'ho detto prima del voto, che usciva un Parlamento così con questa legge e che la cosa necessaria a quel punto era un governo brevissimo con riforma elettorale e tornare. Non ho cambiato idea visto quello che ne è accaduto dopo. Comunque, allo stato degli atti dobbiamo ragionare su quello che c'è per far capire meglio a casa. Tra l'altro molti dei nostri ascoltatori ci mandano messaggi e sono legittimamente, a mio giudizio, anche esasperati, perché tra le coperture IMU di cui si sta parlando alla Camera in questi momenti, queste ore, c'è anche quello che a molti cittadini appare come un obbrobrio, perché il condono sulle somme dovute da chi ha gestito le scommesse e così via, legali e così via, però sono misure sulle quali io non mi scandalizzo, ma capisco che agli occhi della gente, che poi dice noi che cosa avremmo in più? 10 euro in più al mese, ecco, questa è una svolta un po' difficile. Guarda, allora, questa cosa, io cerco di fare la mia analisi. Tu hai già citato il fatto che l'importo è di poca cosa, no? Si va dai 120, 150 ai 300 euro all'anno. Non è sufficiente per rilanciare l'economia, ma può essere un segnale positivo. Ma che segnale è se anche in questa occasione tu dividi il paese? Prima tu citavi che la possibilità di dedursi il 50% dell'IMU eccetera dalla base imponibile è caricata sui redditi agrari, cioè mettere l'uno contro l'altro. Ma scusa, ma che cos'è questa invece, esatto, che ti dice solo al lavoratore dipendente, no? E scusami, e il disoccupato? Certo. E scusami, il pensionato? Esatto. Scusa, questi niente? Allora, chi ha la fortuna di avere un lavoro? Perché se io sono un operaio sfortunato che mi ha chiuso l'azienda, bravo, ho finito il mio paracadute sociale, no? Gli ammortizzatori, certo, che faccio? Dove vado? Allora, questo governo, io mi sarei aspettato, avesse messo i soldi in tasca più a chi non ce li ha, che qui ai pochi che ce l'hanno, perché adesso sono sempre milioni, ma non è per fare demagogia, Oscar, no, è no, perché perché ancora una volta si sta cedendo a un modo di pensare che è superato, così non si va da nessuna parte. Aspetta che ti interrompo perché abbiamo il minuto di informazione stradale, poi torniamo, ti do la parola. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, 44 secondi. Risposta a coloro che dicono, mandandoci gli sms al 349-238-6666, però non state un po' sbagliando a criticare prima che ci sia il testo. La mia risposta è questa: io credo che l'informazione, il dibattito pubblico, la possibilità per migliaia di cittadini di mandare anche mail alla Presidenza del Consiglio, ai componenti del governo, prima che ci sia un testo, di cui è vero, non ci mettono in condizione di sapere quello che poi approveranno davvero, se non dopo, serva anche a rendere loro chiaro che cosa poi tantissimi italiani pensano rispetto a ipotesi che sono le loro, perché questi testi di lì sono usciti comunque, non è che ce li stiamo inventando, quindi è anche una spinta dal basso per fare capire. Confindustria ha appena detto mezz'ora fa, con questo taglio dell'IRAP così congegnato ci facciamo poco o niente, sbagliano, ognuno fa naturalmente il proprio, noi tentiamo di ragionare a 360 gradi. Ho interrotto Bortolussi che diceva qui per chi sta veramente peggio non c'è niente. No, c'è, allora la social card la aumentano fino a di ben 250 milioni per il 2014, però 250 milioni, signori, sono 250 milioni, perché ci aggiungono, attenzione, non solo a quelli che sono alla fine della scala sociale italiana, ma anche gli immigrati. Si può discutere o no, però non è certo questo, io la do come notizia, certo. Ma c'è anche questo, ma non è certo questo che risolve i problemi. Allora, il discorso per esempio dei capannoni che tu facevi. Allora, la situazione è questa: un sindaco che si vede tagliata l'IMU oppure ridotta perché il comune dice mi dovevi 110 milioni, lo Stato dice no, guarda, secondo i miei calcoli erano 100, si trova con 10 milioni in meno. Che fa quel comune? Una delle possibilità importanti è che ai capannoni, quelli censiti come di Domodossola, cioè grande distribuzione, capannoni industriali, capannoncini, mi spiego, queste cose, certo, qui, cosa può fare? Può tenersi lo Stato, prima era provvisorio, adesso l'hanno reso, invece con questo decreto lo renderebbero ormai stabile per sempre. Il 7,6, cioè l'aliquota fino al 7,6 se lo tiene lo Stato, alla faccia dell'aliquota comunale, esatto, imposta municipale. Poi il sindaco che si trova con i 10 milioni in meno, cosa fa? Può aumentare fino al 10,6. Alla faccia di questi signori che dovrebbero produrre ricchezza in maniera competitiva in un paese dove si paga l'energia dal 40-60% in più. La burocrazia, sappiamo, i tempi della giustizia, le infrastrutture e avanti. Allora questi si trovano a pagare magari un 10,6. Scusa, ma è gente che già si è visto raddoppiare rispetto all'ICI l'IMU e che arriva fino a un più 154% rispetto all'IMU. Allora, che gioco giochiamo? Poi l'IRAP, bene? Allora dice, guarda, ti ho aggiunto qualcosa sull'IRAP. Allora, non scherziamo, Monti ha aumentato la deducibilità dell'IRAP di 1,6 miliardi nel 2012, di 3,4 miliardi nel 2013 e di 3,9 miliardi nel 2014. Onore al merito, lui ha la sua fede, il suo modo di vedere le cose, lui è un teorico, diciamo così, tra virgolette, dell'offerta e lui crede in queste cose, l'ha fatto e l'ha fatto bene, ma questo provvedimento, scusa, cos'è che porta tanto di più? No, e te non si capisce neanche se è per tutti o solo per i nuovi assunti, mi spiego meglio, è per i nuovi assunti, ma si assomma agli altri provvedimenti o no? No, perché del testo che abbiamo avuto, cioè sul Sole di Oggi, no. E allora scusa, che cavolo di discorso. Bravo Giuseppe, anche questo è bravo, bravo. Questo è un giocare con le figurine, questa è la mia opinione. Sentiamo Enzo da Milano che ha, credo, una domanda da farti. Enzo, prego. Sì, buongiorno Oscar, benvenuto, perché sono un suo grande ammiratore. Io poche cose. Il suo interlocutore di Mestre, non mi ricordo Bortolussi. Benissimo, è stato di una chiarezza disarmante su quello che veramente si dovrebbe fare in questo momento, specialmente sulla legge elettorale e tutto il resto. Qui veramente è ora che la gente rialzi la testa una volta per tutte. Qui ci dicono ogni giorno delle stronzate, mi scusi il termine, pazzesche, e nessuno ha il coraggio di dirgli in faccia: ma a che gioco state giocando? Ma nel vero senso della parola, è ora di finire con questo atteggiamento qua. Tutto qui, mi scusi lo sfogo, ma è tanto allora, che... Non era una domanda, ma era una considerazione. Devo dire che quasi tutti i messaggi che stanno arrivando sono in linea con quello che ci ha detto Enzo da Milano. È una cosa che mi sorprende, perché io Enrico Letta lo conosco da tanto tempo, credo che lui per primo si renda conto che dopo quello che era successo 2 settimane fa in aula, e lui aveva detto: adesso c'è la svolta, cambio di marcia, vedrete, abbiamo capito, siamo più liberi anche nei confronti dei vincoli della maggioranza Berlusconi. E poi questo è il testo a cui hanno lavorato negli ultimi 3 giorni invece che averci pensato per mesi, e io la penso come ha detto Giuseppe fino a questo momento. Oscar, mi perdoni se ti faccio un altro paio di osservazioni. Certo. Una è quella del taglio dell'aggiornamento sulle pensioni oltre i 3.000 euro. Allora, io mi aspetto che il mio paese si comporti bene, sia un paese giusto, eccetera, ma questa non è giustizia, scusami, questa è demagogia. Se io ho pagato i contributi, li ho pagati tutti per avere una pensione da 5-6 mila euro, perché me ne privano? Mi privano almeno dell'aggiornamento, cioè dell'adeguamento. E se uno invece ha pagato per una pensione da 2 e prende una pensione da 4, è quello che dovrebbero tagliare. Perché non hanno il coraggio, visto che toccano i diritti di tutti, di toccare una volta per tutta quello che non è giusto? C'è gente che è andata in pensione, mi spiego, con l'ultimo stipendio, ma non ha pagato quei contributi. Esattamente. Questa è demagogia. Siamo quindi d'accordo anche su questo con Giuseppe, c'è un criterio generale di ricalcolo per le rendite, per fatte con la parte retributiva invece che contributiva. Quello lo capisco, e quello secondo me sarebbe una cosa di equità intergenerazionale, di equilibrio sistemico. Tutte le altre cose, compreso l'intervento, che vedremo se verrà confermato, che c'è nei testi che abbiamo esaminato, di cui vi stiamo parlando, lo capisco meno, a dire la verità, proprio lo capisco molto molto molto meno. Senti, e secondo te la cosa degli statali come viene presa? Non sarà una delle cose su cui ci sarà la maggior protesta? No, guarda, non solo ci sarà maggior protesta, ma una delle cose più, direi, stupide, e ti spiego perché. Fa il paio però con quella sulle pensioni. Allora, gli statali dal 2001 al 2010 hanno avuto un aumento di costo per le retribuzioni di 40 miliardi. Ora, 40 miliardi sono una cifra iperbolica. Ti dico anche che in altri paesi come la Francia cosa è aumentato anche di più. Però da noi c'era la crisi, non si cresceva, tutti dicevano che i salari perdono potere d'acquisto. Bene, aumento di 40 miliardi. A chi sono andati questi soldi? Secondo l'analisi fatta dalla Corte dei Conti, sembra, perché... A chi sono andati? Soprattutto ai dirigenti. Esatto. Non certo ai bidelli, esatto. Non certo agli infermieri, non certo i professori di scuola media. Devi chiudere. Bastonati. Cosa succede adesso? Che tagliano a tutti, anche a quelli che hanno di meno. Ma bravissimo, e anche questa è un'altra cosa secondo me completamente sbagliata. Io ringrazio Giuseppe Bortolussi, segretario generale della CGIL di Mestre, che è stato con noi. Vedremo se stasera avremo il testo, ne riparleremo, ma intanto, come vedete, le preoccupazioni e gli interrogativi sono tanti. A domani.